Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, il Consiglio dei Ministri, ne abbiamo ampiamente parlato ieri, ma insomma potrebbe finire un'era, come già ricordavamo ieri, per il mondo delle banche popolari. Ieri ci scommetteva tutta la borsa e oggi siamo a una giornata quasi fotocopia, nel senso che la Popolare Emilia Romagna guadagna quasi il 7%, il Banco Popolare il 6,15% e UbiBanca il 3,20%. Va molto bene anche Mediaset, visto che parliamo di borsa, citiamo anche il caso di Mediaset, più 4,81% e IUX più 4,30%. Ma dicevo, nel Consiglio dei Ministri è all'ordine del giorno, oltre che il tema terrorismo, anche il decreto legge disposizioni urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, attraverso il quale il governo dovrebbe modificare la regolamentazione delle banche popolari, quindi abrogare il voto capitario, una testa, un voto, indipendentemente dalle quote possedute, la soglia dell'1% nelle partecipazioni dei singoli soci e il numero minimo di soci previsti, 200. Tutte norme, memeccanismi che rendono le banche popolari, al di là del giudizio che non posso dare su questi caratteristiche del mondo delle popolari, rendono le banche popolari non contendibili. Questo per quello che riguarda, ed è confermato che se ne parlerà nel Consiglio dei Ministri. Vedremo se riusciremo, essendo iniziato un po' in ritardo, a darvi tempo della fine del programma anche gli ultimi sviluppi del Consiglio dei Ministri vero e proprio. Parleremo anche di Alitalia in apertura, perché da questo punto di vista oggi presentato in maniera ufficiale tutto il la nuova Alitalia, dichiarazione del presidente della nuova compagnia Montezemolo, ma anche del ministro delegato Cassano e poi di Hogan, che è il numero uno chiaramente Etihad. E su questo ne parleremo. James Hogan infatti ha detto sarà la compagnia più sexy e creerà nuovi posti di lavoro, il successo del business all'Italia, siamo investitori di lungo termine. E poi parleremo anche della situazione internazionale, perché ieri sono arrivati dei dati del Fondo Monetario, di revisioni tutte a ribasso sulla crescita mondiale, la Cina ma soprattutto la Russia, meno 3%, la conseguenza è l'embargo ma anche e soprattutto il crollo dei prezzi del petrolio per quello che riguarda la Russia. E in una settimana molto delicata, perché giovedì vi sarà il direttivo della Banca Centrale Europea che, stando alle attese, dovrebbe quantomeno annunciare il via libera all'acquisto di titoli di Stato, non sappiamo ancora se annuncerà anche i meccanismi, la tempistica. Poi domenica le elezioni in Grecia, con molta attenzione sulla conferma o meno di quanto tutti i sondaggi indicano, ossia Tsipras vincitore. Bisognerà capire intanto se vince, poi con che proporzione, poi avrà 3 giorni per formare un nuovo governo, per cui la vicenda non si risolverà certo tra domenica e lunedì, però è una settimana molto delicata. In tutto questo le borse sono mediamente incerte. Francoforte infatti è invariata, Parigi guadagna invece bene, più 0,90%, Londra più 0,30%, l'America oggi aperta, riaperta, meno 0,56%, Milano va bene, più 0,80%, ma dicevo, Milano si concentra, come ricordavamo in apertura, proprio sul tema delle popolari e tralascia altri temi. Se vogliamo proprio andare nell'analisi, Enel guadagna l'1,60%, A2A l'1,80%, bene anche oggi quindi gli energetici, ma a fronte di questo Eni cede uno 0,56% e poi c'è la vicenda Saipem che viaggia anche su altri binari, meno 4,21%, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Euro su dollaro a quota 1,1571. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente anche le altre notizie in breve, parleremo anche della legge Fornero, del referendum bocciato. Allora, intanto veniamo ai dati di carattere internazionale, come sempre in apertura di programma. Ieri sera, in serata, il Fondo Monetario ha rivisto a ribasso tutte le stime sulla crescita. Oggi si è saputo che la crescita cinese l'anno scorso è stata la più bassa degli ultimi 24 anni. È una cifra altissima per noi, un più 7,4%, ma per la Cina è la crescita più bassa degli ultimi, appunto, decenni, degli ultimi 24 anni. Interessante che in Cina il presidente cinese Xi Jinping si è aumentato lo stipendio del 62%. Voi direte, hai visto che tutto il mondo è paese, tu che racconti sempre gli sprechi e i costi eccessivi di parte della nostra pubblica amministrazione e degli enti locali. Beh, attenzione però, perché è vero che il presidente cinese Xi Jinping si è aumentato lo stipendio, ma sapete a quanto l'ha portato? L'ha portato a 1.600 euro al mese. Questo guadagna. Uno può dire, ma il costo della vita in Cina è più basso. Sì, ho capito, è più basso, a parte che non è così più basso se uno abita a Pechino o a Shanghai. Però attenzione, stiamo parlando di 1.600 euro al mese. Ieri, nei giorni scorsi, abbiamo raccontato quanto guadagnava l'avvocato, l'ex avvocato del comune di Perugia, due volte lo stipendio di Angela Merkel e due volte lo stipendio di Barack Obama. Cioè, di questo stiamo parlando. Qui parliamo di 1.600 euro al mese. Interessante che prima di lui gli altri presidenti guadagnavano circa 1.000 euro al mese. Ecco per cui l'aumento è importante del 60%, 986 euro al mese. Barack Obama guadagna $400.000 l'anno, più 1.700.000 euro di spese e viaggi. Il primo ministro di Singapore guadagna 1.400.000 euro l'anno. E l'aumento dello stipendio del presidente cinese, che segue anche un aumento degli stipendi di altri funzionari dipendenti statali cinesi, è stato deciso per ridurre il pericolo di corruzione. Vorremmo spiegare ai cinesi che da noi purtroppo la corruzione non si riduce nemmeno a fronte di stipendi per i dirigenti di enti locali della pubblica amministrazione, spesso quelli di prima fascia, altissimi, sopra la media europea. Eppure non è che la corruzione in Italia sia calata, ma che... Vabbè, poi parleremo anche, appunto, del Fondo Monetario Internazionale. Lo spread italiano, veniamo all'Italia e all'Europa. Lo spread è a 122 punti, il rendimento all'1,66%, quindi stabile sui valori di ieri. Il commercio con l'estero, oggi l'Istat ha diffuso i dati su novembre. L'export è salito dell'1,7% sull'anno prima ed è calato invece dell'1,1% su ottobre. Le importazioni sono rimaste invariate rispetto a un anno prima. La bilancia al netto della componente energetica, la nostra bilancia dei pagamenti, la bilancia commerciale, scusate, risulta inattivo per quasi 7 miliardi di euro, e nei primi 11 mesi l'avanzo commerciale sale a 37 miliardi rispetto ai 25 miliardi dei primi 11 mesi del 2013. Tradotto, l'export delle imprese italiane nel 2014 ha fatto anche meglio di quanto non fece nel 2013. A significare che sì, ci sono tanti problemi nel nostro modello di impresa, ma evidentemente ci sono anche molte cose positive se riesce ad avere un surplus di 37 miliardi. Ed evidentemente il problema dei consumi non è un problema di prodotti, è un problema di potere d'acquisto interno. E poi c'è tutto il tema che spesso abbiamo affrontato dei vincoli, non solo la tassazione, ma dei vincoli di carattere burocratico, di carattere normativo, di carattere giudiziario e quindi la giustizia civile, che frenano le nostre imprese. Dov'è che sono andate meglio le nostre esportazioni? Fuori dall'Europa più 2,7%, soprattutto sui beni strumentali più 6%, i beni di consumo sia durevoli più 2,3 che i non durevoli più 1,7%. In calo invece le vendite di prodotti energetici meno 15%. Infatti questo poi pesa, ma c'è un calo complessivo anche del prezzo del petrolio del 50%. È crollato, ahimè, del 23% l'export in Russia, lo ha annunciato oggi la Coldiretti. Meno 23% per effetto congiunto dell'embargo sui prodotti agroalimentari e anche del forte rallentamento dell'economia russa, del deprezzamento fortissimo del rublo, causato a sua volta dal continuo calo del prezzo del petrolio. E ne pagano le conseguenze, come dicevo, soprattutto i prodotti agroalimentari, il divieto all'ingresso di una lista di prodotti che comprende frutta, verdura, formaggi, carne, salumi, ma anche pesce. Sì, le esportazioni italiane in Russia sono calate quindi del 66% per quello che riguarda l'agricoltura, ma del 27% per il tessile, dell'82% per gli autoveicoli e del 21% per i mobili. Oh, la Corte dei Conti oggi dice una cosa che va letta con attenzione. Senza investimenti in sanità, soprattutto nell'assistenza domiciliare territoriale, sono a rischio i livelli essenziali di assistenza, i LEA. Però la Corte dei Conti dice, attenzione, alcune regioni hanno speso male e spendono male i soldi per la sanità. E qui torniamo ai prezzi dei beni intermedi e dei medicinali e dei farmaci e delle siringhe e delle garze. Per cui da questo punto di vista non dice che vanno dati più soldi tu cura la sanità, dice che in alcune regioni di questo paese la spesa sanitaria rischia di non garantire i livelli essenziali di assistenza, ma poi se uno va a vedere bisogna capire anche come spendono queste regioni in sanità, perché è chiaro che se tu paghi la famosa siringa 5 volte, la famosa sacca di plasma 16 volte rispetto alla media nazionale o alle regioni più virtuose, erodi, ti mangi tutti i soldi poi per i livelli essenziali di assistenza. Allora veniamo al Jobs Act. Il ministro Poletti ha detto, interrogato sul tema dei co-co-co, ha detto: il governo nel riordinare le forme contrattuali ne abolirà alcune, ne riformulerà altre. E ha detto: attenzione, l'operazione su Coco è un'operazione delicata. Ascoltiamolo a margine della presentazione del rapporto su imprese e lavoro di obiettivo lavoro. Sicuramente noi ci sono forme contrattuali che aboliremo, ce ne sono altre che ristruttureremo profondamente. Quindi adesso naturalmente questo lo faremo tutto insieme, quindi non posso fare anticipazione dicendo questo contratto lo togliamo o no, perché noi naturalmente abbiamo l'esigenza di fare in modo che se aboliamo una forma, una tipologia contrattuale, dobbiamo sapere dove vanno quelli che fino a ieri hanno usato quella forma. Quindi quando noi diremo questa forma contrattuale abbiamo deciso di abolirla, chi stava in questa forma legittimamente avrà un'altra opportunità, chi ci stava illegittimamente speriamo, lavoriamo perché vada nel contratto a tempo indeterminato tutele crescenti, abbia una sua posizione nel mercato del lavoro così come noi lo immaginiamo. Quindi vi rendete conto che è un'operazione molto delicata, perché noi non vogliamo riprodurre lavoro nero, non vogliamo fare in modo che persone che oggi hanno comunque una tipologia di contratto da utilizzare domani, di fronte al fatto che noi quella tipologia la aboliamo, non abbiano un'alternativa. Quindi dobbiamo fare un lavoro delicato, complesso, ma che siamo in grado di fare. Allora, per quello che riguarda sempre il mercato del lavoro, oggi il ministro Madia, ministro della pubblica amministrazione, ha detto: è assolutamente evidente che il Jobs Act non si applica al pubblico impiego, è un provvedimento per il settore privato. E a mio avviso, l'abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo, questo è uno dei limiti principali della riforma del mercato del lavoro del governo Renzi, cioè scarichi tutta la flessibilità sul settore privato. E va bene, non flessibilità, attenzione, anche la flessibilità positiva, anche il contratto tutele crescenti, ma pensiamo tutto il tema del reintegro per un licenziamento, e nel settore pubblico non accade niente. Ora io non posso ogni volta fare questa polemica, ma qualcuno prima o poi dovrà spiegarmi perché, e non mi rispondete perché nel pubblico si entra per concorso. Ho capito cosa vuol dire, che non sei toccabile siccome entri per concorso. Ancora il ministro Madia dice

Gli elementi chiave includono una nuova strategia basata su tre hub in Italia. A Milano Malpensa saranno incrementati i servizi di lungo raggio. Da Milano Linate aumenteranno i collegamenti con gli hub delle compagnie partner. E a Roma Fiumicino crescerà invece l'offerta di destinazioni a lungo raggio e voli a corto e medio raggio. Le nuove rotte da Roma comprendono Berlino, Düsseldorf, San Francisco, Mexico City, Santiago del Cile, Pechino e Seoul, e poi l'aumento dei voli per New York, Chicago, Rio de Janeiro e Abu Dhabi. Alitalia poi aggiungerà 13 voli settimanali da Milano Malpensa, tra cui un collegamento giornaliero per Abu Dhabi e 4 voli alla settimana per Shanghai e nuovi voli su Tokyo. Tant'è che oggi il presidente Montezemolo dice l'obiettivo è arrivare all'utile, all'Italia inutile veramente, vogliamo vederla, nel 2017 ci sono tutte le condizioni per una nuova era. L'Italia ha una grande forza, ha una tradizione e una competitività in Sud America, Venezuela, Argentina, Brasile, ha una forte presenza nel Nord America e queste saranno ulteriormente rafforzate. Quindi c'è nuove rotte, ve ne parlerà Cassano, e rafforzamento delle attuali. Un'azienda, per essere competitiva, deve creare valore, deve creare ricchezza, deve non essere più dipendenti dalle banche o da altri sostegni. E l'obiettivo importante di questo impegnativo ma realistico piano industriale è di portare l'azienda inutile nel 2017, e questa è la cosa più importante che sta alla base di quelle quattro priorità: le nostre persone, il servizio, le rotte e il brand cui vi accennavo prima. Ora, noi ci occupiamo abbastanza spesso di compagnie aeree, abbiamo avuto ospite il numero uno di Emirates, il numero uno sempre in Italia di Cathay Pacific, quindi le rotte in questo momento più interessanti, Asia e tutto lo snodo, diciamo, Dubai verso il resto del mondo, ma chiaramente da italiani seguiamo anche soprattutto all'Italia. Sulle nuove rotte e sulle nuove l'aumento delle frequenze di alcune rotte è intervenuto l'amministratore delegato Silvano Cassano. Dice vabbè, l'obiettivo è alto, al cliente daremo un servizio a 5 stelle e comunque deve diventare la compagnia più sexy, questo l'ha detto anche Hogan dopo, ma sentiamo prima Cassano. All'Italia e nel mondo del settore rivolto alla clientela, e nel corso degli anni abbiamo visto, se guardiamo solo alla moda, che c'è quello che si chiama un mondo clessidra. O sei nella parte bassa, dove fai della leva competitiva dei costi il tuo elemento principale di successo, e abbiamo chiaramente gli esempi di EasyJet e Ryanair, o sei nella parte alta, quindi nella parte alta punti sulla qualità del servizio, sull'eccellenza, sui viaggi a lungo raggio. Essere in mezzo è una posizione di estrema debolezza competitiva, che non riguarda solo l'Italia. Quindi noi abbiamo preso un impegno nei confronti di tutta la comunità e dei nostri azionisti di riposizionare l'Italia verso l'alto attraverso investimenti, attraverso nuove rotte, attraverso nuovi aerei. Ancora nel 2000, vedo che molti scrivono ma all'Italia è inutile nel 2017, è una barzelletta. Adesso con un po' di pazienza, però dopo esserci occupati dell'Italia per anni interi, ricorderete il 2008 e la compagnia che poi è tornata a perdere quasi 1 milione di euro al giorno, forse questa volta ci siamo. Giro però la domanda a Gianni Dragoni, da sempre molto caustico, molto critico, giustamente anche non certo accusabile di essere così embedded in Alitalia. Gianni, buonasera. Il collega del Sole 24 Ore che si occupa, per chi non lo conoscesse, anche... Ci mancava da un po' l'Alitalia. Ci mancava da un po'. Ci mancava un po' l'Alitalia, infatti si è tornato. Allora, prima del meteo, e poi torniamo ad ascoltare anche un'altra frase di Cassano e l'intervista a Hogan, potrebbe essere la volta buona? Guarda, 6 anni fa è partita la CAI, era gennaio del 2009, proprio 6 anni fa, e veniva annunciato l'utile dopo 3 anni. Io allora, se devo auspicare che questa volta non accada la stessa cosa, c'è una differenza, ecco, come andrà a finire non lo sappiamo e non possiamo prevederlo, che questa volta c'è dentro come azionista una compagnia aerea che ha un ruolo importante, cioè Etihad, che ha il 49%, ma di fatto ha le leve di comando e che conosce bene il mestiere, che è ricca e quindi potrebbe, se ci sono dei difetti di strategia, degli errori, potrebbe correggerlo in tempo. Questo non è sufficiente, questa volta probabilmente c'è una formazione, poi hanno ulteriormente alleggerito l'occupazione, ridotto anche l'azienda, questa l'Italia è molto più piccola di quella anche che volava 6 mesi fa. Quindi anche queste nuove rotte avverranno con molta gradualità, per cui è possibile, c'è questo anche beneficio che ora le compagnie tendono a ridimensionare, ma il petrolio che è crollato porta un beneficio importante, anche se può non essere immediato perché una parte degli acquisti erano già bloccati. Quindi è possibile che questa volta almeno le premesse siano migliori di precedenti operazioni. E noi ce l'auguriamo. Adesso il meteo, poi ascoltiamo altre dichiarazioni e vorrei capire bene, perché ho capito parzialmente la strategia, cioè sappiamo tutti che l'errore della CAI, quando si creò la Good Company con i privati, con i capitani coraggiosi, insomma, fu quello di mollare le rotte internazionali a lunga distanza, concentrarsi troppo sul traffico nazionale, sulla Milano-Roma, soprattutto su Milano-Roma, nel momento in cui partiva anche la concorrenza spietata, rivoluzionaria del Frecciarossa, e non capendo che in realtà si andavano a regalare clienti a Lufthansa e a tutte le altre compagnie aeree per chi doveva andare in Asia, in India e in tutte le aree a maggior crescita economica. Mi sembra che in questo caso, anche per la vocazione di Etihad, questo rischio non si corra questa volta, perché vengono potenziate tutte le rotte, soprattutto quelle a lungo raggio, però i dettagli dopo il meteo. Di nuovo in diretta. Allora, se dicevamo delle altre dichiarazioni di Cassano e poi di Hogan, Cassano è l'amministratore delegato dell'Alitalia, Silvano Cassano, prima rimettiamo in ordine i conti, poi torneremo ad assumere. Il desiderio che abbiamo tutti noi è di riposizionare l'Italia verso l'alto, servendo la clientela in un modo diverso. È chiaro che questo passa dal coinvolgimento dei nostri dipendenti. Laddove noi facciamo questo e ci riusciamo, tanto prima ci riusciamo per tornare all'utile operativo, possiamo poi pensare ad un piano di sviluppo occupazionale. È chiaro, un'azienda di servizi al cliente non può prescindere da questo aspetto, ma dobbiamo essere pragmatici. Firmato l'accordo, restano ancora le gravi difficoltà operative di Alitalia, non è che le risolviamo in 19-20 giorni. Quindi noi dobbiamo procedere con velocità ma con pragmatismo, dobbiamo mettere le cose in ordine. Non è possibile fare delle promesse oggi solo perché ci sono delle domande di questo tipo. Abbiamo visto in altri mercati, il mercato di riferimento in Europa è molto competitivo. L'Italia come paese ha permesso alle compagnie aeree di low cost di entrare con un livello di penetrazione che è unico in Europa. Abbiamo un lavoro importante da fare, sappiamo come fare, difendiamo e aiutiamo le 11.000 persone che sono oggi all'interno dell'Italia a lavorare meglio e poi pensiamo ad allargare questa famiglia. Infine anche James Hogan, che è vicepresidente dell'Italia ma è il numero uno di Etihad, quindi è il numero uno dell'azionista di riferimento, la compagniera di Abu Dhabi. Siamo investitori di lungo termine. Non saremmo entrati in questa compagnia aerea se non avessimo ritenuto che Alitalia potesse tornare ad essere un'impresa di successo. Siamo un investitore strategico. Abbiamo acquisito il 49% della società e l'investimento è considerevole, 560 milioni di euro, ma comunque parte di un pacchetto globale da parte delle banche per assicurare che la compagnia avesse l'opportunità di essere ricostruita. Siamo un investitore di lungo periodo, questa non è solo una toccata e fuga. Siamo qui per lavorare a fianco della direzione. Ma non siamo una banca. Silvano Cassano e la sua squadra hanno un mandato ben preciso: gestire questa compagnia in un'ottica commerciale, costruire un'attività sostenibile e fare profitti. Sicuramente non ci sono sovvenzioni a fondo perduto. Noi non riceviamo sovvenzioni a fondo perduto negli Emirati Arabi Uniti e non ce ne sono qui. Noi non abbiamo una riserva infinita di liquidità. Abbiamo bisogno di vedere un guadagno sui nostri investimenti. Perciò è molto chiaro. Lavoriamo fianco a fianco, diamo il nostro supporto, ma la direzione della compagnia è inequivocabilmente nelle mani del gruppo dirigente italiano. Io a quest'ultima frase non ci credo, Gianni Dragoni, nel senso che Hogan è uno che interviene anche pesantemente. Ci hanno raccontato da dentro che insomma i modi sono molto australiani, no? Molto rough, molto sbrigativi. È già intervenuto pesantemente, perché tutta la trattativa l'ha condotta, che è cominciata nella fine del 2013, dettando le condizioni, e come è emerso nelle carte finali dell'accordo all'Italia Etihad, prima dei conferimenti dalla vecchia CAI alla nuova Alitalia avvenuti a fine dicembre, che è oggetto di un articolo oggi sul Sole 24 Ore, nella relazione dei periti che hanno stimato il valore del ramo d'azienda di Alitalia conferito alla nuova compagnia, c'è scritto che il piano della nuova Alitalia, che è stato approvato in agosto dal Consiglio di Amministrazione della CAI, è stato elaborato da Etihad con il supporto di una società specializzata e poi è stato condiviso, quindi finora questo non si sapeva, quindi il piano è quello fatto, lo ha fatto Etihad. Adesso però è inutile fare le verginelle. Quando tu ti compri il 49% di un gruppo e spendi la cifra che ha speso Etihad, se non ricordo male 500 milioni, correggimi Gianni perché adesso ho memoria, 560 milioni di alcuni altri acquisti che devono ancora passare. È anche giusto che tu la gestisca, non è che questi era per indicare quello che si vuole, non noi, ma che a volte dicono ma la compagnia italiana, è Etihad che comanda, su questo non ci sono dubbi. Dimmi un'ultima cosa, Gianni. Forse è meglio così. Le rotte ti convince o no? Perché, insomma, a vederla così sembra è un cambio di rotta, scusate il gioco di parola, nelle rotte. Molto più lunga distanza. Ma è confermato quanto si diceva qualche mese fa, cioè Roma, Fiumicino, il vero hub, Milano un po' hub, ma anche con la connessione con Abu Dhabi, invece Linate che farà solo da smistamento verso altri aeroporti? Sostanzialmente sì, anche con quello, le informazioni date oggi, che credo non siano tutte, però sono le più aggiornate, tutto questo però ci sarà un aumento dei voli a lungo raggio, quelli che sono mancati soprattutto nell'epoca della CAI, sarà comunque graduale e limitato, perché per fare un aumento massiccio ci vorrebbero molti aerei in più, e la flotta di Alitalia a lungo raggio ha 22 aerei, quest'anno ne arriverà uno in più per fare i voli dell'Expo da Malpensa a Shanghai, che sarà una delle nuove rotte a lungo raggio. Nei 4 anni fino al 2018 ne arriveranno più 7 di queste lungo raggio, però arriveranno soprattutto alla fine, quindi sarà molto graduale. Le rotte, guarda, rapidamente, le nuove rotte a lungo raggio saranno queste, quelle annunciate: Roma-Pechino quest'anno, Roma-Seul quest'anno, Malpensa-Shanghai quest'anno, e poi quest'anno di rotte a lungo raggio ci saranno solo i collegamenti da Bologna, Catania e Venezia per Abu Dhabi, quindi c'è anche un forte indirizzamento verso Abu Dhabi, che è l'Hub Low. L'anno prossimo ci sarà la Roma-Mexico City, Roma-Santiago del Cile, nel 2018 Roma-San Francisco. Il resto ci sarà un po' di un aumento di voli, di frequenze su voli già fatti e su voli che già ci sono, tra cui per esempio quest'anno da Malpensa il volo per Abu Dhabi, ci saranno una frequenza in più al giorno, cominciato l'anno scorso, quindi Abu Dhabi certamente polarizza, quindi aumenteranno due voli la settimana a Tokyo, quindi Malpensa soprattutto non è che ci sarà un grande incremento però non ci sarà un aumento non viene neanche ridimensionata come sembrava all'inizio in maniera così radicale. Ma, ci saranno comunque meno voli nazionali, soprattutto ad esempio di Roma a Milano, che allora quello è un discorso di linate. C'è un altro aspetto che va, che siccome Etihad ha delle partecipazioni in altre compagnie europee, soprattutto la Air Berlin, ma anche la Air Serbia e una Svizzera, Etihad Regional ormai, userà queste compagnie, è stato detto anche oggi, per integrare questa rete anche con voli verso l'Italia. Infatti Air Berlin sta già volando da Linate verso la Germania. Quindi sono voli che non creano occupazione nella compagnia aerea italiana, ma creano, diciamo, un'offerta. Quindi ci sarà anche questo aspetto che però non pesa molto sull'Italia, ma entra nel mercato. Allora, quindi Pechino, Seul e Shanghai quest'anno, poi Mexico City, insomma il piano è abbastanza chiaro, vedremo le tappe dell'implementazione. Grazie intanto a Gianni Dragoni. Non ne parlavamo da un po', era giusto dedicare, lo dico chi dice, troppo spazio all'Italia. No, non sono d'accordo. Speriamo di occuparcene sempre meno, cioè speriamo che l'Italia lentamente torni a essere una compagnia sempre più in grado di diventare profittevole e concorrente con le altre. Lo vedremo. Mi sembra, sapete che non siamo mai così ottimisti, ma mi sembra di poter dire, forse stavolta si cambia verso, forse. Poi non so, se neanche ce la fanno quelli di Abu Dhabi, Etihad, manca solo Lourdes. Adesso il traffico. Adesso la borsa, è terminato il Consiglio dei Ministri, vedo delle agenzie, ne parleremo ampiamente nella seconda ora del programma. La borsa intanto, di nuovo, e visto che si parla di Consiglio dei Ministri, molto attesa per la riforma delle banche popolari. Infatti la POP Emilia Romagna più 7,12%, il Banco Popolare più 5,70%, bene anche UbiBanca più 3,1%, più deboli le altre, anche se sul fronte sempre bancario, cito il Monte dei Paschi più 3,15%, Intesa San Paolo più 1,30%. Chi è debole debole veramente è Saip, meno 3,90%, Tenaris meno 1,90% come G-Tech, Luxottica meno 0,90%. Allora, visto che della riforma delle banche popolari parleremo e di quello che è uscito dal Consiglio dei Ministri soprattutto parleremo nella seconda ora, intanto commentiamo il resto della borsa con Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Parigi più 1,16, Francoforte più 0,14, Londra più 0,50, l'America meno 0,90%. Al di là del mondo delle popolari, Saipem, oggi gli energetici hanno viaggiato su due binari distinti, perché da un lato abbiamo Terna più 1,30%, Enel più 1,70%, A2A più 2%, dall'altro c'è Eni meno 0,56 e poi dicevo Saipem meno 3,90. Se vogliamo inserire in quel gruppo per il ruolo che ha nel mondo del petrolio, Tenaris meno 1,90. Sì, diciamo che i petroliferi, visto il nuovo crollo del greggio che sta trascinando a ribasso anche la borsa di Wall Street, hanno decisamente pagato dazio. Oggi il petrolio perde più del 4%, e così non sorprende che anche Saipem, che peraltro, insomma, come sappiamo, ha anche un altro genere di problemi, perde il 3,9%, Tenaris quasi 2 punti percentuali, Eni mezzo punto percentuale, ma vista la capitalizzazione di Eni è comunque una performance diciamo negativa da rilevare. Per quanto riguarda invece le altre gli altri titoli dell'energia, proprio assimilabili diciamo al mondo della generazione elettrica e delle utility, diciamo il fatto che i tassi siano bassi favorisce aziende particolarmente indebitate come nelle A2A guadagna il 2%. Ieri il presidente di A2A Giovanni Valotti ha ricordato che il nuovo piano industriale arriverà, ha dato diciamo una scadenza precisa all'incirca all'inizio di aprile, e che diciamo ci sarà un indirizzo verso il consolidamento. Anche in questo caso si aspettano delle mosse del governo, vedremo se, così come ha fatto con le popolari, il governo riuscirà a prendere delle misure che favoriscano diciamo anche un efficientamento delle multi utility o ex municipalizzate. Veniamo poi a altri titoli, diciamo molto bene oggi Mediaset, nel finale soprattutto più 4,46% e in recupero anche Iux più 4,20% di Mediaset e Iux, però parlerei dopo il GR 24. Mi chiedete giustamente dell'euro, è a quota 1,15,63 nei confronti del dollaro. A chi invece vuole sapere il prezzo del petrolio, avete ragione, non abbiamo dato questa oggi in questa puntata. In apertura è aperto in calo del 3,22% a New York, sotto anche i $47 al barile. Ci risentiamo anche con i colleghi di Radio Core dopo il GR24. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Ciao Condina di Radio Corio Sole 24 Ore. Al di là delle banche popolari di cui adesso parleremo e dei titoli dell'energia, c'è il caso di Mediaset più 4,3%. Ciao. Sì, qui c'è un'ipotesi di un aumento dei prezzi della pubblicità che avrebbe allo studio il management di Mediaset. Nel dettaglio, i prezzi degli spot pubblicitari dovrebbero essere aumentati in media del 2%, per alcune trasmissioni, magari quelle più in vista, potrebbero anche essere superiori. Quindi l'ennesimo segnale che almeno per la televisione il fondo per il mercato pubblicitario sembra essere stato toccato, e dunque sicuramente gli operatori hanno apprezzato questo segnale lanciato da Mediaset. Luxottica, ieri a mercato chiuso sono stati diffusi i dati, tra l'altro le vendite hanno superato le attese, però il titolo oggi perde lo 0,90. Che si è realizzato il solito cliché che si vende poi quando viene data la notizia, in attesa della notizia si acquistano i titoli. Se si pensa che da ottobre scorso i titoli hanno recuperato quasi il 40%, lo schema è rispettato. Ricordiamo anche senza Andrea Guerra, che quando andò via Guerra sembrava che il titolo dovesse tracollare, poi in realtà l'azienda ha continuato ad andare avanti, a salire in borsa. Sì, c'è un ascoltatore che mi chiede di Saipem, perché non ne parlate? Ne abbiamo parlato prima del GR24, è legata all'andamento del petrolio, oggi un nuovo calo. Saipem amplifica molto, chiaramente fornendo impiantistica per tutti quelli che vanno a estrarre il petrolio, la dico in maniera molto approssimativa, ne risente pesantemente. Sul fronte invece Stream, di fatto certo. È stato cancellato, avevano degli ordini per miliardi di euro, finché poi non si chiarisce effettivamente quanto riesca a recuperare, poi come la società debba ovviare a questo manco di commesse. È chiaro che il mercato continua a penalizzarla. South Stream, lo ricordo, era il gasdotto annullato dalla Russia che doveva bypassare l'Ucraina passando per il Mar Nero, e in cui Saipem ha un ruolo fondamentale. Allora, tutti sono gli ospiti che abbiamo avuto in queste settimane sono concordi nel dire che l'operazione fosse più faraonica, di carattere politico, che non con una netta e chiara ricaduta economica, soprattutto perché ci deve mettere i soldi. Però chiaro, Saipem di questo era un committente e ne risente. Migliori e peggiori, oggi in borsa. Per quello che riguarda i titoli, Ceramica Richetti più 12%, Acotel più 9,90, e poi la Pop Emilia Romagna, abbiamo detto, il Credito Valtellinese un altro 5,90% oggi di rialzo, il Banco Popolare il 5,70% di rialzo, ma ne abbiamo parlato. E sempre sul fronte bancario faccio notare che da questo punto di vista mi chiedete di Intesa San Paolo, l'avevamo detta, comunque la ridò volentieri, più 1,30%. Invece tra i titoli che più sono cresciuti, Visibile Editore più 4,90 e il gruppo editoriale L'Espresso più 4,50. Il fronte opposto vede invece Worldspace meno 8%, Eurotech meno 5,40, Premuda meno 4,50, IKF meno 4,12, poi appunto Saipem meno 3,90%. Grazie a Ceo Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso apriamo la pagina del Consiglio dei Ministri, che è terminato da poco e ha approvato proprio il decreto sulle banche e sugli investimenti. Allora, le 10 banche popolari, quelle più grandi, e quindi tutte le quotate più la Pop Vicenza, e me ne manca una, nel senso che cioè, le maggiori banche popolari sono UbiBank, BPM, Popolare di Milano, Banco Popolare, Popolare Emilia Romagna, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, la Pop Vicenza, sono queste nella classifica le banche principali. Però dicevo, ha detto Renzi poco fa, attraverso l'articolo 1 interveniamo sulle banche popolari, non su tutte, ma sulle banche popolari con un patrimonio superiore agli 8 miliardi, che sono 10 in Italia, e in 18 mesi dovranno superare il vuoto capitario e diventare delle SPA, delle normali banche. È un momento storico. E poi ha aggiunto Renzi, non vogliamo danneggiare la storia dei piccoli istituti, e quindi qui parliamo, traduco, dei crediti cooperativi sul territorio, delle piccole banche popolari, quelle che, se posso permettermi un commento, hanno mantenuto quella vocazione mutualistica, cooperativistica, di ridare sul territorio. Quando una banca ha un patrimonio superiore agli 8 miliardi è difficile immaginarla come una piccola banca del territorio che raccoglie risparmi, li reinveste, quindi giustifica il voto capitario, giustifica la soglia dell'1%, giustifica il fatto che ci debbano essere almeno 200 soci, che nessun socio possa, che ogni testa valga un voto al di là di quanto tu compri di questa banca. Tutte queste norme avevano a che fare proprio sulla banca piccola del territorio che reinvestiva, che non poteva diventare, diciamo, alla mercé di chi avesse più soldi da metterci dentro, in una visione appunto mutualistica. Però quando hai un patrimonio superiore agli 8 miliardi, cioè, voglio dire, sfido chiunque di voi a dimostrarmi una differenza tra le banche normali e quelle che ho citato prima, il Banco Popolare o la Popolare di Milano, dai, insomma. E comunque Renzi dice, non vogliamo danneggiare i piccoli istituti, ma far sì che le banche sul territorio siano all'altezza delle sfide europee e mondiali. Non c'è nessun intervento sulle banche di credito cooperativo. Vorrei anche essere chiaro sul fatto che non si tratta di danneggiare la storia dei piccoli istituti, ma si tratta di far sì che le banche sul territorio, le banche in Italia, siano all'altezza delle sfide europee e mondiali. Noi siamo il paese che ha probabilmente il maggior numero di istituti di credito, abbiamo troppi banchieri e facciamo poco credito. E poi ha aggiunto Renzi, il nostro marchio di fabbrica è sfatare i tabù, siamo qui per fare cose che in 30 anni non ha fatto nessuno. Devo dire che da questo punto di vista il tema delle banche popolari è almeno 10 anni che lo affrontiamo senza successo, per le resistenze messe in piedi anche dal mondo delle banche popolari. Le banche territoriali restano tali, e quindi il riferimento è alle BCC, alle banche di credito cooperativo, e quelle con un patrimonio sotto gli 8 miliardi. Modifichiamo il Senato della Repubblica e figuriamoci se abbiamo paura di intervenire sul sistema bancario. E poi ha aggiunto che verrà introdotta una norma sulla portabilità dei conti correnti, il costo di chiusura del conto corrente a carico della banca va fatto in tempi relativamente rapidi, è qualcosa che va a beneficio dei consumatori. Questo l'ha aggiunto il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan al termine del Consiglio dei Ministri. E poi Padoan ha aggiunto, c'è stata condivisione con la Banca d'Italia. Allora, professor Donato Masciandaro, nostro ospite anche la scorsa settimana, docente di politica monetaria alla Università Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Allora, volete sapere la lista? Le più importanti sono Banco Popolare, UbiBank, Popolare di Milano, Popolare Emilia Romagna, Popolare di Vicenza, Credito Valtellinese e Banca Popolare di Sondrio. E poi c'è tutta un altro numero, cioè UbiBank, per carità, l'abbiamo citata, è tra le principali. Le chiedo ancora un minuto di pazienza, Masciandaro, perché vorrei intanto un suo commento a caldo. E se non risponde a una logica, al di là di come uno la possa pensare, ma insomma una logica corretta, cioè quando tu sei così grande che hai un patrimonio superiore agli 8 miliardi, di atteggiamento mutualistico, cooperativistico sul territorio, ti è rimasto poco. Sei una banca a tutti gli effetti e deve avere la stessa regolamentazione delle normali SPA. La risposta dopo il traffico. Abbiamo detto ai senatori che dovevano modificare l'idea stessa del Senato, figuratevi se abbiamo paura a dire alcune realtà, alcune delle quali naturalmente molto positive, altre magari un po' troppo legate al potere di rendita sul territorio, di poter innanzitutto cambiare loro stesse. Quindi il governo del coraggio, il governo del cambiamento, il governo dell'innovazione interviene anche sul sistema del credito con alcuni interventi importanti anche per le famiglie, a partire dalla portabilità dei conti correnti, che mi sembra un piccolo gesto ma che dà il segno di quello che deve essere. Poi naturalmente da qui al 20 febbraio, giorno in cui presenteremo non soltanto i decreti fiscali e io spero tutti i provvedimenti sul lavoro, Rapoletti gli prende un coccolone quindi non va bene, ma insomma gli altri provvedimenti sul lavoro che mancano, ci sarà anche il modo di portare finalmente la legge sulla concorrenza firmata da Federica Guidi e diciamo condivisa con innanzitutto con Piercarlo Padoan ma anche con gli altri colleghi, a dimostrazione che nell'arco del primo anno di azione di governo di novità direi veramente storiche per il nostro paese, storiche per la piccola storia della politica dei governi, ne abbiamo messe in campo diverse. Allora sì, le altre banche che stanno sopra gli 8 miliardi, oltre a quelle citate, la Popolare di Sondrio, abbiamo detto, il Credito Valtellinese, forse non l'ho citato io, la Banca Popolare dell'Etruria del Lazio e poi Veneto Banca, oltre alla Popolare di Vicenza. Qui la lista a questo punto c'è tutta. Professor Masciandaro, un primo commento. Qual è la domanda? La domanda è, se, no, è quella che le facevo prima, cioè se finalmente per delle banche che, diciamocela tutta, per le dimensioni, giustamente per l'orizzonte, erano delle banche normali, cioè tutta quella normativa. Guardi, dottor, la sua domanda è chiara e grazie per avermela riassunta. Se vogliamo essere equilibrati, non è un caso che il dibattito sulle grandi popolari quotate sia ancora in piedi, ancora oggi, non perché ci sono delle pressioni, anche ci possono essere delle pressioni locali, ma il modello della grande banca popolare quotata non è una peculiarità italiana. È presente in altri contesti istituzionali, europei e non. Perché invece non diciamo serenamente qual è la verità? La verità è che oggi c'è bisogno di dare mano libera ai manager delle banche popolari per fare operazioni di sistema, forse sono almeno due, e allora queste operazioni di sistema sono diventate una priorità, per cui per risolvere due casi specifici si è deciso di cambiare le norme. Ma lei cosa si riferisce? A Monte dei Paschi? Almeno sono almeno due le banche Cassa italiane di Genova, sottoposto Cassa di la Cassa di risparmio di Genova e il Monte dei Paschi. Allora, premesso che è così evidente che questa è una soluzione, insomma, se voglio nascondere un ago costruisco un pagliaio. È la classica soluzione italiana. In altri però contesti, mi scusi, ma Cendari, io non ho capito una cosa. Ma cos'è che non ho capito cosa dice lei? Dice, siccome bisogna fare operazioni di fusione di sistema, poi questo vuol dire e ci sono due banche in difficoltà, Monte dei Paschi di Siena e Cassa di Premio di Genova, in questo modo le banche, a parte che hanno 18 mesi, se ho ben capito, di tempo. Però il principio, io non ho capito se lo condivide oppure no. Lei tra l'altro conosce il mondo delle popolari, perché se non ricordo... Io conosco il mondo delle popolari perché l'ho studiato e perché ho rivestito e rivesto cariche istituzionali nel mondo delle popolari. E quello che posso dire è che ad oggi non c'è alcuna evidenza empirica che il modello banca popolare, aggiungo per essere chiaro, grande banca popolare è meno efficiente di una grande banca SPA. In altri termini, l'assetto giuridico non conta per definire se una banca è più o meno efficiente. E aggiungo un'altra cosa, non c'è alcuna evidenza empirica che il sistema delle popolari in condizioni normali e anche durante la crisi ha avuto peggiori performance delle banche SPA. Perché non c'è questa evidenza empirica, anzi è vero il contrario. Quindi il lungo dibattito sulle popolari è lungo semplicemente perché se un sistema non funziona sparisce. Sì, non ci può essere un dibattito che dura 30 anni, come ha ricordato lei, semplicemente perché ci sono delle pressioni locali. Io su questo sono un po' più malizioso di lei. Ci sono delle pressioni non locali intese come piccole, ma del territorio, che coinvolgono la politica, che coinvolgono gruppi di interesse. Le banche popolari sul territorio hanno giustamente un potere, e quindi la politica è anche sensibile poi al messaggi che arrivano dal mondo delle popolari, perché sappiamo che poi la politica ha i collegi sul territorio, oltre diciamo tutto un intreccio più o meno corretto nei rapporti di potere. Però quello, lei dice, non è da dimostrare che le banche popolari siano state peggio gestite, abbiano avuto delle minore efficienza. C'è però un tema, professor Masciandaro, che non le sfugge. Quando, e mi viene in mente la Popolare di Milano, cioè la governance di queste banche, che hanno, quando hanno dimensioni da banca vera e propria, non da istituto, da credito cooperativo del territorio, diventa un po' difficile quando tu hai il voto capitario, quando basta che 200, 300, 400 soci o i sindacati blocchino qualunque tipo di riforma. Non è un po' arcaico come meccanismo? Cioè, perché io devo tenere il voto capitario in una banca che è una banca nazionale a tutti gli effetti o anche di carattere europeo e l'altra no? Semplicemente perché io penso che un'economia di mercato deve essere ogni singola azienda che deve decidere come deve essere disegnata, e poi sarà il mercato a decidere se quell'azienda è vincente o perdente. Io trovo un po' un controsenso nel rullare i tamburi a favore del mercato e fare un'operazione, questa è un'operazione dirigistica. Questo non c'è dubbio, nel senso che è una decisione dall'alto. Questo è dirigismo. Allora, nei nostri primi anni di lezione nelle aule di economia ci hanno insegnato che il mercato è bello perché modelli diversi si confrontano con un perimetro di regole. Allora, chiunque oggi sa che quando investe in una quotata popolare è diversa da investire in una SPA, lo sanno benissimo. Io quello che davvero non ho mai capito è come da un lato si predica la pluralità dei modelli, e lo devo ricordare, questo modello è in Italia, in Francia, in Germania, in Canada, non siamo gli unici ad averlo, allora mettiamoci d'accordo, ci va bene la pluralità dei mercati, la pluralità dei modelli di un'economia di mercato, oppure ci piacciono le operazioni dirigistiche? Se ci piacciono le operazioni dirigistiche, che possono essere necessarie, beh, ce ne sono di due tipi: quelle dirette e trasparenti. Tutti i paesi a causa della crisi hanno fatto nazionalizzazioni, hanno iniettato capitali. Poi invece c'è il dirigismo codino, c'è il dirigismo trasversale. Che si nasconde, dice lei. Che significa cambiare una norma perché si facciano alcune operazioni. Ma dei due io preferisco il primo. Allora, io continuo a difendere, come sempre faccio in questi casi, nel contraddittorio la riforma delle popolari, e le chiedo, professor Masciandaro, ma non è che in questo modo, diventando di fatto contendibili, perché poi è inutile girarci attorno, se tu levi il voto capitario, levi la soglia dell'1%, levi il fatto che ci devono essere almeno 200 soci, rendile, soprattutto sul voto capitario, rendi le banche popolari contendibili come le altre banche. Non è che poi questo possa portare a un'operazione di consolidamento, come si dice in gergo, del settore bancario anche utile? Cioè rendere, parliamo di mercato, allora se qualcuno ha un interesse nel fare operazioni di fusione adesso può, perché in questo momento le popolari, diciamocela tutta, sono intoccabili dal punto di vista di un'operazione di acquisizione o di fusione. Beh, questo è l'auspicio che abbiamo tutti, lei ed io e anche gli ascoltatori, cioè che dal dirigismo ne nasca maggiore efficienza. Però voglio sottolineare che solo l'emergenza, la situazione straordinaria, consente di eliminare tutto quello che sappiamo finora su come funziona il sistema bancario. È una situazione straordinaria, forse non è un caso che cambiando il perimetro di vigilanza a tutti i costi si vuol ridefinire i sistemi, e abbiamo visto quanto in realtà i metri ancora non sono uguali. Io quello che mi auguro è che in questa omogenizzazione, quello che sta non stia succedendo, che in realtà ci stiamo omogenizzando al sistema peggiore. Per essere molto chiari, le SPA che basano tutto sulla contendibilità non hanno fatto una gran figura durante la crisi. Lei dice Monte dei Paschi, per esempio? No, parliamo proprio con i grandi campioni di queste banche contendibili. Erano quelle che avevano i coefficienti di capitale più alti e poi sono saltate. Allora, se vogliamo andare avanti per dogmi e per slogan, e questo sicuramente piace soprattutto ai politici, possiamo raccontarci la storia delle grandi rivoluzioni. Se invece guardiamo i dati, dobbiamo riconoscere che abbiamo una situazione in cui casi eccezionali sono risolti attraverso una legge generale. Posso aggiungere un'ultima cosa, dottor Barisoni? Io sono contento che questo Consiglio dei Ministri abbia deciso qualcosa, perché eravamo ai limiti dell'aggiotaggio. Ho capito. È da sabato che gira un documento. Questo sono d'accordo con lei. Sono due giorni che la parte peggiore del mercato ha scommette, avuto il suo lucro. Allora, su questo sono d'accordo con lei, sul resto no, ma è il bello dell'intervenire in questo programma, però su questo sì, e cioè queste operazioni prima si fanno e poi si annunciano, perché obiettivamente è due giorni che vediamo salire tutte le popolari con chiaramente, grazie alla simmetria informativa, alcuni pochi ne hanno potuto approfittare molto più di altri. Grazie anche all'economista professor Donato Masciandaro, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un augurio da Sebastiano Barisoni di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.